Ma perché? Quando hai cominciato a detestarlo? Per tutto questo tempo sembri aver sopportato tutto molto passivamente. Non so, questa sensazione mi cresceva dentro già prima che andassi a quella scuola di Bologna. Mister Preston mi faceva sentire come se fossi in suo potere e ricordandomi troppo frequentemente il mio impegno con lui, fece in modo che iniziasse a criticare le sue parole e i suoi modi di fare. E poi c'era un'insolenza nel suo atteggiamento nei confronti della mamma. Stai pensando che non sono una figlia rispettosa? E forse non lo sono, ma non potevo sopportare le sue velate smorfie di scherno per i suoi difetti e odiavo il modo in cui dimostrava ciò che definiva il suo amore per me. Poi, dopo che ebbi trascorso un semestre da Madame Lefebvre, arrivò una nuova ragazza inglese, una cugina di Mr. Preston, che sapeva pochissimo di me. Ora, Molly, non appena ti avrò raccontato ciò che sto per dirti, dovrai dimenticartelo. E parlava così tanto e così di continuo del cugino Robert. Evidentemente lui era una personalità in famiglia e com'era bello. E tutte le donne del territorio si innamoravano di lui. E nel pacchetto anche una lady titolata. Lady Harriet, esclamò Molly indignata. Non lo so, replicò Cinzia stancamente. All'epoca non mi interessava e non mi interessa neanche adesso. Perché la ragazza ripeteva che c'era anche una vedova molto graziosa che amoreggiava follemente con lui. Con la famiglia, lui aveva spesso riso di tutte le sue piccole avances, che lei credeva lui non cogliesse. Oh. E questo era l'uomo che avevo promesso di sposare, con cui mi ero indebitata e a cui avevo scritto lettere d'amore. Così ora capisci ogni cosa, Molly? No, non ancora. Cosa hai fatto quando hai saputo che aveva parlato così di tua madre? C'era solo una cosa da fare. Gli scrissi che lo odiavo e che non l'avrei sposato mai e poi mai, e che non appena avessi potuto avrei ripagato il mio debito con gli interessi. Ebbene, Madame Lefebvre mi riconsegnò la mia lettera, ancora chiusa, devo dire. Mi spiegò che non permetteva che le allieve del suo istituto scrivessero a dei gentiluomini, a meno che lei non avesse prima letto i contenuti delle lettere. Le dissi che si trattava di un amico di famiglia, l'intendente che gestiva gli affari della mamma. Non potevo certo attenermi alla verità, ma lei non volle che fosse spedita. E dovetti guardarla mentre la bruciava e prometterle che non avrei mai scritto un'altra volta, prima che acconsentisse a non rivolare tutto alla mamma. Così dovetti calmarmi e aspettare fino a che non fossi tornata a casa. Ma allora non l'ha incontrato, almeno non per qualche tempo. No, però potevo scrivere e cominciai a mettere da parte i miei soldi per ripagarlo. Cosa dissi ricevendo la tua lettera? Oh, da principio finse di non credere che parlassi sul serio. Pensavo fosse solo una ripicca o che fossi temporaneamente offesa e lui dovesse semplicemente scusarsi e rimediare con proteste molto appassionate. E poi passò alle minacce. E ciò che è peggio è che io diventai codarda. Non sopporto che si sappia, che se ne parli e che le mie stupide lettere si vedano in giro. Quelle lettere. Non posso pensare a quegli incipit. Mio carissimo Robert, rivolti a quell'uomo. Ma, Cinzia, come hai potuto fidanzarti con Roger? Chiese Molly. Perché no? Ribatté Cinzia, voltandosi di scatto verso di lei. Ero libera, sono libera. Mi è sembrato un modo per assicurare a me stessa che era del tutto libera e Roger mi piaceva davvero. È stato un tale conforto entrare in contatto con persone sulle quali poter contare. E poi non era un tronco, un sasso. Non potevo non essere toccata dal suo amore tenero altruista, così diverso da quello di Mr. Preston. So che non mi crede abbastanza buona per lui e naturalmente, se tutto questo venisse alla luce, neanche lui mi riterrà più all'altezza. La sua voce scivolò in un tono lamentevole molto commovente a sentirsi. E a volte credo che rinuncerò a lui e me ne andrò a rifarmi una vita fra gente che non conosco. In un paio di occasioni ho pensato anche di sposare Mr. Preston per pura vendetta e averlo così per sempre in mio potere. Credo solo che sarei io ad avere la peggio, perché lui è crudele fin dentro l'anima, feroce come una tigre, con la sua bella pelle striata e il cuore senza pietà. L'ho pregato e pregato di lasciarmi libera, senza scandali. Non pensare allo scandalo, disse Molly, gli si ritorcerà contro più di quanto potrà ferire te. Cinzia impallidì ancora di più. Ma ho scritto delle cose in quelle lettere sulla mamma. Era abbastanza sveglia da vedere tutti i suoi difetti e non potevo capire la forza delle sue tentazioni. Ma lui minaccia di mostrare quelle lettere a tuo padre se non acconsento a rendere pubblico il nostro fidanzamento. Non lo farà, dichiarò Molly alzandosi per la rabbia e piantandosi davanti a Cinzia quasi con la stessa risoluta ferocia che avrebbe dimostrato in presenza di Mr. Preston. Io non ho paura di lui. Non oserà insultare me e se lo fa non mi interessa. Gli chiederò quelle lettere e vedremo se avrà il coraggio di rifiutarmele. Tu non lo conosci? Osservò Cinzia scuotendo il capo. Mi ha chiesto numerosi appuntamenti, come se accettasse di riprendersi il denaro, che è qui, chiuso in questa busta, pronto per lui da 4 mesi, come se volesse ridarmi le mie lettere. Povero, povero Roger, lui non pensa a queste cose. Quando voglio scrivere a lui delle parole d'amore, mi interrompo, perché ha composto frasi altrettanto affettuose all'indirizzo di quell'altro uomo. E se Mr. Preston mai venisse a sapere che io e Roger siamo fidanzati, riuscirebbe a vendicarsi sia di me che di lui, infliggendoci quanto più dolore possibile per colpa di quelle disgraziate missive che ho scritto a neanche 16 anni, Molly. E sono solo 7. Sono come una mina sotto i miei piedi, che può scoppiare in qualsiasi momento. E allora verranno giù padre, madre e tutto. La sua conclusione fu piuttosto amara, benché le parole fossero così leggere. Come posso fare per ottenerle? Chiese Molly riflettendo. Perché le riavrò con papà a sostenermi, Mr. Preston non oserà rifiutare. Ma il problema è proprio questo. Lui sa che io temo che tuo padre venga a sapere tutto. Tuo padre più di chiunque altro. E nonostante tutto ritiene di amarti. È il suo modo di amare. Ripete spesso che non gli interessa cosa fa per indurmi a diventare sua moglie e che dopo il matrimonio è sicuro che farà in modo che io lo ami. Cinzia cominciò a piangere per la stanchezza del corpo e la disperazione della mente. Un momento dopo Molly l'abbracciò e si premette sul petto la sua bella testa, posandovi la guancia e consolandola con parole carezzevoli come se Cinzia fosse una bambina. Oh, è un tale conforto averti detto tutto, mormorò lei, e Molly rispose. Sono certa che siamo dalla parte della ragione, e questo mi rassicura del fatto che lui deve ridarci le lettere, e lo farà. E si prenderà i soldi? Aggiunse Cinzia, sollevando il capo e guardando intensamente il viso di Molly. Deve prendersi i soldi. Oh, Molly, non riuscirai mai a gestire la cosa senza che tuo padre lo venga a sapere. E piuttosto andrei a lavorare da istitutrice in Russia. Quasi quasi penso che preferirei. No, questo no, disse, respingendo fra i tremiti ciò che stava per dire. Ma lui non deve sapere. Per favore, Molly, non deve sapere. Non potrei sopportarlo. Non so cosa non potrei fare. Mi prometti che non direi nulla a lui o alla mamma? Non lo farò mai. Non pensi che lo farei, se non per risparmiare. Stava per dire, se non per risparmiare dolore a te e a Roger. Ma Cinzia la interruppe. Per niente. Per nessuna ragione al mondo devi dirlo a tuo padre. Se fallisci, fallisci. E io ti vorrò bene per sempre per aver tentato, ma non starò peggio di prima. Anzi, starò meglio, perché avrò il conforto della tua comprensione. Ma promettimi di non parlarne con Mr. Gibson. Ho promesso una volta, garantì Molly, e lo faccio di nuovo. Perciò adesso vai a letto e cerca di riposare. Sei bianca come un lenzuolo. Ti ammalerai se non riposi un po'. Sono le 2 passate e stai tremando di freddo. Così si augurarono la buonanotte, ma quando Molly rientrò nella propria stanza, tutta la sua energia l'abbandonò. Si gettò sul letto, vestita com'era, perché non era rimasto cuore per fare altro. Se Roger fosse mai per puro caso stato informato di tutto, lei sapeva quanto questo avrebbe danneggiato il suo amore per Cinzia. Eppure era giusto nasconderglielo. Doveva tentare di convincere Cinzia a rivelargli ogni cosa non appena fosse tornato in Inghilterra. Una piena confessione avrebbe meravigliosamente attenuato il dolore che lui avrebbe provato a un primo ascolto. Molly si perse pensando a Roger. Come si sarebbe sentito? Cosa avrebbe detto? Come si sarebbe svolto quell'incontro? Dove si trovasse in quel preciso istante? E così via. Fino a che all'improvviso si fece coraggio e rievocò la propria offerta e la propria promessa. Ora che l'ardore iniziale era passato, ella vide chiaramente le difficoltà, e la principale era come ottenere un tête-à-tête con Mr. Preston. Come c'era riuscita Cinzia? E le lettere che si erano scambiati? Suo malgrado, Molly fu costretta a riconoscere che dietro all'apparente franchezza di Cinzia dovevano celarsi importanti sotterfugi, e con ancora più reticenza iniziò ad avere paura di intraprendere a sua volta quella strada. Ma avrebbe tentato di percorrere la retta via e se si fosse smarrita sarebbe stato solo per risparmiare un dolore a coloro che amava. Capitolo 44. Molly Gibson accorre in aiuto. Fu piuttosto curioso dopo le tempeste della notte incontrarsi a colazione in placida tranquillità. Cinzia era pallida, tuttavia parlava con la calma di sempre di ogni sorta di frivolezze, mentre Molly sedeva muta a guardarla, meravigliata, e convincendosi del fatto che Cinzia doveva aver vissuto una prolungata esperienza di repressione dei propri reali pensieri e delle proprie segrete preoccupazioni prima di essere capace di assumere una simile apparenza di compostezza. Tra le lettere che giunsero quel mattino ce n'era una proveniente dai Kirkpatrick di Londra, ma non da Helen, che era la corrispondente di Cinzia. Era la sorella a scrivere, scusandosi per Helen, che non stava bene, diceva. Aveva avuto l'influenza e la malattia l'aveva lasciata molto debole e indisposta. Invitala a venire qui a cambiare aria, propose Mr. Gibson. La campagna in questo periodo dell'anno è migliore di Londra, a meno che il luogo non sia circondato da alberi. Ora, il nostro terreno è ben bonificato, rialzato, ghiaioso, e io mi occuperò di lei come di una mia paziente e senza alcuna spesa. Sarebbe meraviglioso, convenne Mrs. Gibson, rapidamente valutando nella propria testa i cambiamenti che sarebbero stati necessari nell'economia domestica prima di accogliere una giovane signora abituata a una casa come quella di Mr. Kirkpatrick, calcolandone le conseguenti difficoltà e soppesandone l'incidenza a confronto con i probabili vantaggi. Pensò a tutte queste cose persino mentre parlava. Non ti piacerebbe, Cinzia? E anche a te, Molly? Anche tu potresti così fare amicizia con una delle ragazze? E senz'altro saresti poi invitata a tua volta, il che sarebbe proprio bello. E io non le permetterei di andarci, precisò Mr. Gibson, che aveva conquistato la sfortunata facilità di leggere i pensieri della moglie. Cara Ellen, continuò Mrs. Gibson, mi piacerebbe tanto occuparmi di lei, e mio caro, potremmo trasformare il vostro ambulatorio nel suo salottino privato. È quasi superfluo precisare che la bilancia pesava dalla parte degli inconvenienti dovuti al fatto di avere un'estranea dietro le quinte per diverse settimane. Infatti, per un ammalato, tutto dipende dalla tranquillità. Il salotto, per esempio, sarebbe costantemente disturbato dai visitatori e la sala da pranzo è così, così, come posso dire, da pranzo. L'odore del cibo sembra non svanire mai. Sarebbe diverso se il caro papà mi avesse permesso di far aprire una finestra. Perché non può avere il salottino di sopra come camera da letto e la stanzetta che si apre dal salotto come suo saloncino personale? Chiese Mr. Gibson. La biblioteca, che era il nome con cui Mrs. Gibson aveva deciso di dare dignità a ciò che in precedenza si chiamava stanzino dei libri. Beh, potrebbe appena contenere un divano oltre ai libri allo scrittoio e ci sono spifferi dappertutto. No, mio caro, è meglio che non la invitiamo per niente. Casa sua è comunque confortevole. Bene, bene, replicò Mr. Gibson, che comprendeva che avrebbe avuto la peggio e non era abbastanza interessato alla questione da litigare in proposito. Forse hai ragione, è un caso di lusso contro aria fresca. Certa gente soffre di più per la mancanza dell'uno che per l'assenza dell'altra. Sai che io sarei lieto di vederla se decidesse di venire. E di accettarci per come siamo, ma non posso rinunciare all'ambulatorio, è una necessità, è il nostro pane quotidiano. Scriverò per dir loro quanto è gentile Mr. Gibson, disse la moglie molto contenta quando lui lasciò la stanza. Gli saranno grati come se la ragazza fosse venuta. Che fosse a causa della malattia di Helen o per qualche altra ragione, dopo colazione, Cinzia si fece molto avvilita e distratta e così restò per tutto il giorno. Molly ora comprendeva perché i suoi modi erano stati per mesi così mutevoli e di conseguenza era tenera e paziente con lei. Verso sera, quando le ragazze furono lasciate sole, Cinzia si chinò su Molly in modo che il suo viso fosse invisibile. Molly, esordì, lo farai? Farai ciò che hai detto ieri sera? Ci ho pensato tutto il giorno e talvolta mi è convinto che ti restituirebbe le lettere se tu gliele chiedessi. Potrebbe immaginare. Comunque vale la pena tentare se la cosa non ti dispiace tanto. La verità era che ogni volta che ci ripensava, la prospettiva del colloquio con Mr. Preston spiaceva Molly sempre di più, ma dopo tutto era stata una sua proposta e lei non poteva e non voleva rimangiarsela. Poteva avere buon esito ed ella non vedeva come potesse costituire un danno. Così acconsentì, tentando di celare il malcontento che cresceva sempre di più dentro di lei man mano che Cinzia pianificava rapidamente i dettagli. Lo incontrerai sul viale che porta dal padiglione del parco alle torri. È possibile che lui arrivi solo da una direzione, cioè dalle torri, dove ha spesso commissioni da svolgere. Ha le chiavi per entrare dappertutto. E tu puoi entrare come abbiamo fatto spesso, dal padiglione. Non sarà necessario che ti spingi molto lontano. Molly rimase colpita dal fatto che Cinzia avesse tale esperienza di simili accorgimenti e si arrischiò a chiederle come mai lui sarebbe stato informato di tutto ciò. Cinzia arrossì solamente e replicò: Oh, non importa, sarà fin troppo contento di venire. Hai sentito che diceva di voler discutere ancora della faccenda? È la prima volta che l'appuntamento lo propongo io. Se solo riuscirò a tornare a casa, oh, Molly, ti amerò e ti sarò riconoscente per tutta la vita. Molly pensò a Roger e quel pensiero stimolò le parole che seguirono. Deve essere orribile. Credo di essere molto audace, ma non penso che io avrei potuto. Che avrei potuto accettare Roger, neanche lui, se fossi stata impegnata in un mezzo fidanzamento. E parlando, arrossì. Dimentichi quanto detesto Mr. Preston, ribatté Cinzia. È stato questo, più di qualunque grande amore per Roger, a farmi ritenere grata di poter essere almeno impegnata con sicurezza con un altro uomo. Lui non ha voluto che lo si definisse un fidanzamento, ma io sì, perché mi ha fatto sentire sicura, libera da Mr. Preston, e lo sono, se non fosse per quelle lettere. Se solo tu riuscissi a fargli accettare il suo abominevole denaro e farmi restituire le lettere, allora seppelliremo tutto nell'oblio. Lui potrebbe sposare un'altra e io sposerei Roger e non potrebbe andar meglio a nessuno. Dopotutto si tratta solo di ciò che la gente chiama errore giovanile. E puoi dire a Mr. Preston che se renderà pubbliche le mie lettere, mostrandole a tuo padre o altro, io me ne andrò immediatamente da Hollingford per non tornare mai più. Incaricata di consegnare simili messaggi che lei sentiva di non essere in grado di riportare, senza sapere davvero cosa dire, detestando l'idea di quella commissione, insoddisfatta per il modo in cui Cinzia aveva parlato del proprio rapporto con Roger, oppressa dalla vergogna e dalla complicità di un comportamento che le sembrava disonesto, eppure disposta ad affrontare e a sopportare tutto, se solo questo avesse riportato Cinzia sulla retta via, alla luce del sole. E quasi più con compassione per il grande sconforto e la possibile disgrazia dell'amica che con l'amore che coinvolge una comprensione assoluta. Molly partì per la sua camminata verso il luogo concordato. Era una giornata di nuvole di raffiche e l'ululare del vento tra i rami quasi spogli degli alberi maestosi le riempiva le orecchie mentre attraversava i cancelli del parco e si incamminava lungo il viale. Procedeva di buon passo, desiderando istintivamente di mantenersi vitale e di non aver paura di pensare. Ma a un certo punto, a circa un quarto di miglio dal padiglione, il viale curvava e alla svolta seguiva un percorso dritto, diretto verso la grande casa che era ora svuotata dai suoi abitanti. Molly non gradiva di perdere completamente di vista il padiglione e si arrestò per tenerlo nel proprio campo visivo, vicino al tronco di uno degli alberi. Poco dopo udì dei passi sull'erba. Era Mr. Preston. Egli vide una figura femminile quasi nascosta dietro un albero e non ebbe dubbi che si trattasse di Cinzia. Ma quando le si fece più vicino, questa figura si voltò e invece del viso dai colori luminosi di Cinzia, il giovane si trovò di fronte alla faccia esangue e risoluta di Molly. Lei non lo salutò, ma sebbene gli percepisse con certezza, per via del suo aspetto pallido e timido, che aveva paura di lui, i suoi fermi occhi grigi incontrarono quelli dell'uomo con coraggiosa innocenza. Cinzia non è potuta venire? Chiese Mr. Preston, rendendosi conto che lei aspettava che parlasse. Non sapevo che pensaste di doverla incontrare, rispose Molly un po' sorpresa. Nella sua semplicità, ella aveva creduto che Cinzia avesse menzionato che sarebbe stata lei, Molly Gibson, a incontrare Mr. Preston in quel dato luogo e a quella data ora. Ma Cinzia era stata troppo scaltra per farlo e l'aveva attirato lì con l'inganno tramite un messaggio ambiguo che, benché evitando una smaccata menzogna, l'aveva indotto a credere che all'appuntamento si sarebbe presentata di persona. Disse che sarebbe venuta qui lei, spiegò Mr. Preston, molto infastidito per essere rimasto intrappolato, come si sentiva di essere in un colloquio con Miss Gibson. Molly esitò un momento prima di parlare. Lui era determinato a non rompere il silenzio e, visto che si era intromessa in quell'affare, lei doveva trovare la situazione estremamente imbarazzante. In ogni caso, ha mandato qui me a incontrarvi, disse Molly. Le ha raccontato esattamente come stanno le cose tra voi due. Ah sì, sogghignò lui. Non è sempre la persona più aperta e affidabile del mondo. Molly avvampò. Percepiva l'impertinenza di quel tono e anche il suo stato d'animo non era dei più calmi, ma si controllò e si fece coraggio dicendo: Non dovreste parlare così della persona che professate di desiderare come vostra moglie. Ma a parte questo, siete in possesso di alcune sue lettere che lei gradisce le siano restituite. Credo bene! E che voi non avete alcun diritto di conservare. Diritto legale o morale? Di che diritto parlate? Non lo so, semplicemente voi non avete alcun diritto, visto che siete un gentiluomo, di conservare le lettere di una ragazza che le rivuole indietro e ancor meno di usarle come arma di minaccia. Vedo che siete al corrente di tutto, Miss Gibson, ribatté lui facendosi più rispettoso. O perlomeno lei vi ha raccontato la storia dal suo punto di vista, con il suo modo di intenderla. Ora dovete ascoltare il mio. Mi ha promesso con la solennità di una donna. Non era una donna, era solo una ragazza di neanche 16 anni, abbastanza adulta da sapere cosa stava facendo. Ma se preferite la chiamerò ragazza. Mi ha promesso solennemente che sarebbe diventata mia moglie con il solo accordo della segretezza e di un certo periodo di attesa. Mi ha scritto delle lettere ripetendo quella promessa e con un tono abbastanza confidenziale da dimostrare di ritenersi legata a me dalla relazione che ne conseguiva. Io non cedo alla falsità, non pretendo di essere un santo e nella maggior parte dei casi so badare con molta intelligenza ai miei interessi. Sapete abbastanza della sua condizione? Era una ragazza senza soldi e a quel tempo senza amicizie influenti che potessero sostituire la ricchezza e che mi aiutassero a farmi strada nel mondo. La mia era la passione più sincera e disinteressata possibile. Questo deve ammetterlo anche lei. Avrei potuto sposare due o tre giovani donne piene di denaro. Una di loro era sufficientemente bella e di certo non le sarebbe dispiaciuto. Molly lo interruppe. Era irritata dalla sua arroganza. Vi chiedo scusa, ma non desidero sentire le storie delle giovani donne che avreste potuto sposare. Sono venuta qui semplicemente per conto di Cinzia, alla quale voi non piacete e che non vi vuole sposare. Beh. Allora farò in modo di rendermi piacevole, come dite voi. Una volta era così, e lei ha stretto degli accordi che lo scoprirà, richiedono il consenso di due persone per essere sciolti. Non dispero che quando saremo sposati mi farò amare da lei proprio come allora, almeno secondo quanto dicono le sue lettere. Non vi sposerà mai, dichiarò Molly con fermezza. E allora, se mai accorderà a un altro l'onore della sua preferenza, concederò a costui il permesso di studiare attentamente la sua posta. Molly avrebbe quasi potuto farsi una risata. Era così certa e sicura che Roger non avrebbe mai letto delle missive offertegli in simili circostanze, ma poi pensò che tutta quella faccenda e il contatto con Mr. Preston gli avrebbero arrecato un dolore terribile, specialmente se prima non ne fosse stato informato da Cinzia. E lei, Molly, avrebbe potuto risparmiargli quella sofferenza se avesse voluto. Prima che riuscisse a decidere come replicare, Mr. Preston riprese. L'altro giorno avete detto che Cinzia è fidanzata. Posso chiedere con chi? No, rispose Molly, non potete. L'avete sentita? Ha detto che non si tratta di un fidanzamento. Non lo è precisamente. E se fosse un pieno fidanzamento, voi pensate, dopo quanto avete appena affermato, che vi direi con chi? Ma di questo potete stare sicuro. Lui non reggerà mai una riga delle vostre lettere. Lui è troppo. No, non parlerò di lui di fronte a voi. Voi non potreste mai capire. Mi pare che questo misterioso lui sia una persona molto fortunata ad avere una difesa così calorosa da parte di Miss Gibson, con la quale non è fidanzato per niente, osservò Mr. Preston, con un'espressione del volto così sgradevole che Molly all'improvviso si ritrovò sul punto di scoppiare in lacrime. Ma si riprese e proseguì, per Cinzia soprattutto, ma anche per Roger. Nessun uomo e nessuna donna d'onore leggeranno le vostre lettere, e se qualcun altro lo farà, se ne vergognerà talmente che non oserà parlarne. Quale utilità possono avere per voi? Contengono le reiterate promesse di matrimonio di Cinzia, rispose lui. Lei dice che lascerà Hollingford per sempre e se ne andrà per mantenersi da sola piuttosto che sposarvi. Il giovane apparve deluso. Sembrava così amaramente mortificato che a Molly quasi dispiaceva per lui. Questo ve lo dice a sangue freddo. Sapete che mi state riportando delle verità molto dolorose, Miss Gibson? Cioè, sempre se sono verità, continuò riprendendosi un poco. Le giovani donne amano molto le parole odiare e detestare. Ne ho conosciute molte che le usavano all'indirizzo di uomini che per tutto il tempo speravano di sposare. Non posso pronunciarmi in merito ad altre persone, affermò Molly. So solo che Cinzia, qui esitò un momento, le dispiaceva per il dolore di lui e per questo si arrestò, ma poi non si trattenne e disse: Vi odia tanto quanto le persone come lei sono capaci di odiare. Come lei? Ripeté Mr. Preston quasi inconsciamente, appigliandosi a qualunque cosa per tentare di celare la sua mortificazione. Intendo dire che io saprei odiare di più, dichiarò Molly a bassa voce. Ma lui non badò molto alla sua risposta. Premeva nel terreno con la punta del suo bastone e i suoi occhi erano chini. Dunque, ora vi dispiacerebbe farle riavere le sue lettere tramite me? Vi assicuro che non potete costringerla a sposarvi. Voi siete molto semplice, Miss Gibson, replicò lui rialzando il capo all'improvviso. Immagino non sappiate che ci sono altri sentimenti che possono essere gratificati oltre all'amore. Avete mai sentito parlare di vendetta? Cinzia mi ha blandito con le sue promesse e nonostante ciò che voi o lei possiate pensare di me, beh, è inutile parlarne. Non intendo lasciarla impunita. Potete riferirle questo. Mi terrò le lettere e le userò come riterrò opportuno quando ce ne sarà l'occasione. Molly era furiosa con se stessa per come aveva gestito la faccenda. Aveva sperato di avere successo, invece aveva solo peggiorato le cose. Quale nuovo argomento poteva usare? Nel frattempo, egli aggiunse, infervorato e aizzato dal pensiero di come le due ragazze dovevano aver parlato di lui, mentre la sua vanità ferita si sommava alla rabbia dell'amore deluso. Mister Osborne Hamley potrebbe conoscerne i contenuti, anche se fosse troppo onorevole per leggerle. Anzi, persino vostro padre potrebbe sentir mormorare. E se mi ricordo bene, Miss Cynthia Kirkpatrick non parla sempre in termini molto rispettosi della donna che oggi si chiama Mrs. Gibson. Ci sono. Basta, intimò Molly. Non voglio sentire nulla di quelle lettere scritte, in un momento in cui era quasi senza un amico, a voi che tale eravate considerato. Ma ho pensato alla prossima cosa che farò. Vi avverto chiaramente. Se non fossi stata sciocca, mi sarei confidata con mio padre, ma Cinzia mi ha fatto promettere che non lo farò. Per Perciò racconterò ogni cosa dal principio alla fine a Lady Harriet e le chiederò di parlarne con suo padre. Sono sicura che acconsentirà e non credo che avrete l'ardire di dire di no a Lord Kendall. Egli sentì istantaneamente che non avrebbe osato, che per quanto un intendente molto abile e per questo motivo sicuro dei favori del conte, la condotta della quale si era reso colpevole per quelle lettere e le minacce, aveva avanzato a quel proposito, erano cose che nessun gentiluomo, nessun uomo d'onore, nessun uomo degno di questo nome avrebbe mai potuto architettare nei confronti di chiunque. Lo sapeva bene e si chiedeva come quella ragazza davanti a lui fosse stata così astuta da scoprirlo. Si perse per un attimo, colto d'ammirazione per lei. Eccola lì, spaventata eppure audace, a non rinunciare a ciò che intendeva fare, persino quando le circostanze sembravano a lei del tutto avverse. E inoltre c'era qualcosa che lo colpiva più di tutto il resto e che dimostra il tipo d'uomo che era. Si rese conto che Molly, come se fosse stata un puro angelo del paradiso, non capiva che lui era un giovane uomo e lei una giovane donna. Anche se sapeva che avrebbe dovuto cedere e rinunciare alle lettere, non aveva intenzione di arrendersi subito. E mentre pensava a cosa dire per evitare ancora di fare concessioni, finché non avesse avuto il tempo di rifletterci, i suoi sensi allertati colsero il trottare di un cavallo che faceva scrocchiare alacremente il ghiaino della strada. Un attimo dopo Molly intercettò la sua occhiata e gli poté allora vedere un'espressione smarrita sul suo viso e in un istante le sarebbe corsa via, ma prima che riuscisse a partire, Mr. Preston le pose con forza una mano sul braccio. «Ferma!» Dovete farvi vedere. Voi in ogni caso non avete niente di cui vergognarvi. Mentre parlava, Mr. Sheepshanks apparve dalla curva del viale e si avvicinò a loro. Se Molly non se ne accorse, Mr. Preston colse la subitanea occhiata di comprensione che spuntò sulla faccia rubiconda e scaltra dell'anziano gentiluomo. La vide, ma non ci badò. Avanzò e si rivolse a Mr. Sheepshanks, che si arrestò proprio di fronte a loro. Miss Gibson! Servo vostro, una giornata bella ventosa perché una ragazza se ne stia all'aperto e fredda, direi, per stare ferma così a lungo. Preston? Indirizzando il frustino a quest'ultimo con l'aria di chi la sa lunga. Sì, convenne Mr. Preston, temo di aver trattenuto Miss Gibson troppo a lungo. Molly non sapeva cosa dire o fare, fece solo un muto inchino in gesto di salute e si voltò per andare a casa, sentendosi il cuore molto pesante per l'insuccesso della sua impresa. Infatti, non sapeva cosa aveva conquistato e anche Preston forse non lo ammetteva ancora con se stesso. Prima che fosse così lontana da non sentire, udì Mr. Sheepshanks affermare: «Mi scuso per aver disturbato il vostro tête-à-tête, Preston, ma anche se colse quelle parole, il loro significato implicito non si fece strada nella sua mente. Ella riusciva solo a pensare alla gloria e alla fiducia con cui era uscita di casa per tornare da Cinzia sconfitta. Cinzia stava di guardia, in attesa del suo ritorno, e precipitandosi giù dalle scale trascinò Molly in sala da pranzo. «Dunque, Molly, vedo che non le hai. Dopotutto, non ci speravo.» Sedette, come se in quella posizione potesse meglio superare la delusione, e Molly rimase in piedi come colpevole davanti a lei. Mi dispiace così tanto. Ho fatto tutto ciò che ho potuto. Alla fine siamo stati interrotti, è arrivato Mr. Sheepshanks a cavallo. Vecchio esasperante. Pensi che avresti potuto convincerlo a darti le lettere se avessi avuto più tempo? Non so. Vorrei che Mr. Sheepshanks non fosse arrivato proprio in quel momento. Non mi piace che mi abbia trovata lì a parlare con Mr. Preston. Direi che non ci penserà più. E lui, Mr. Preston, cosa ha detto? Sembra credere che tu sia fidanzata con lui e che quelle lettere siano la sola prova in suo possesso. Penso che ti ami, a suo modo. A suo modo, proprio, fece Cinzia sdegnata. Più ci penso, più mi convinco che sarebbe meglio che gli parlasse papà. Gli ho detto che avrei raccontato tutto a Lady Harriet e che avrei fatto in modo che Lord Camnor lo costringesse a restituire le lettere, ma sarebbe molto imbarazzante. Molto, convenne Cinzia cupa, ma lui avrà capito che è solo una minaccia. Però lo farei subito, se tu fossi d'accordo. Intendevo davvero ciò che ho detto, solo penso che papà gestirebbe la cosa molto meglio e con maggiore discrezione. Una cosa ti dico, Molly. Tu hai fatto una promessa, lo sai, e non puoi parlare a Mr. Gibson senza venir meno alla tua parola d'onore. Ma si tratta solo di questo. Io lascerò Hollingford e non tornerò mai più, se mai tuo padre venisse a sapere di questa faccenda, ecco. Cinzia si alzò e, agitata e nervosa, si mise a spiegare lo scialle di Molly. Oh, Cinzia! Roger! Fu tutto ciò che Molly riuscì a replicare. Sì, lo so. Non c'è bisogno che me lo ricordi, ma io non vivrò in questa casa insieme a qualcuno che starebbe continuamente a rimuginare sulle cose che ha sentito dire contro di me, difetti magari, che suonano molto peggio di quanto siano. Ero così felice quando sono arrivata qui. Piacevo a voi tutti, mi ammiravate, pensavate bene di me e adesso. Beh, Molly, posso già vedere la differenza in te. I tuoi pensieri ce li hai stampati in faccia, li ho letti in questi ultimi 2 giorni. Hai pensato. Come mi ha ingannata Cinzia? Ha intrattenuto una corrispondenza per tutto questo tempo ed è stata mezza fidanzata con 2 uomini. Questi sono stati i tuoi sentimenti e non tanto la compassione per me, per una ragazza che è sempre stata costretta ad arrangiarsi senza un amico che la aiutasse e la proteggesse. Molly taceva. C'era molta verità in ciò che Cinzia stava dicendo, eppure anche tanta falsità. Infatti, nel corso di quelle lunghe 48 ore, Molly aveva provato un grande affetto per lei e la situazione di Cinzia l'aveva avvilita più di quanto fosse pesata su Cinzia stessa. Sapeva anche, ma questo pensiero venne solo dopo, come conseguenza dell'altro, di aver sofferto molto per tentare di fare del proprio meglio nel corso del colloquio con Mr. Preston. Era stata messa alla prova oltre le proprie forze e grosse lacrime le riempirono gli occhi, per scendere poi lentamente lungo le sue guance. Come sono brutale, disse Cinzia asciugandole con i baci. Vedo, so che è la verità e me lo merito, ma non devo rimproverare te. Non mi hai rimproverata, la smentì Molly cercando di sorridere. Ho pensato alcune cose che hai detto, ma ti voglio tanto bene, tanto Cinzia, avrei fatto proprio ciò che hai fatto tu. No, tu no. Tu sei fatta di un'altra pasta.